sei sola e mi chiedevo se il tuo viso potrà vivere un istante con il mio. E guardandoti negli occhi ho trovato una luce che non riesco più a mandarla via. Sto dondolando su di un groove che mi spinge con il sound di una cassa a basso voce, luci stroboscopiche. Dimmi che lavoro fai, dove abiti, ma dai, in questo posto io non ti ci vedo mai. Dimmi che tornerai, tornerai, tornerai, ancora non lo sai, non lo sai, non lo sai. Dimmi che tornerai, tornerai, casomai potremo fare il sogno più bello che mai. Dimmi che tornerai, tornerai, tornerai, ancora non lo sai, non lo sai, non lo sai. Mentre io ti parlo nell'orecchio e tu che ballieridi, ballieridi, ballieridi. È l'unica volta che mi perdi.